uno è conservato dentro uno scatolo di mansarda. Per dire, vabbè, Tony, tu forse perché non hai molto spazio, allora sì, ma noi qui già ne abbiamo spazio, abbiamo la cucina 7 metri per 7 metri, ti puoi immaginare, a voi del spazio qua. Va bene, riprendi Tonino. Ma no, il fattore è questo, Giulio, che io sono tipo anche un costruttore e gli fai da te, io mi sono costruito anche dei mobili, ho occupato quegli spazi, poi quando vedo che c'ho il mobile e che c'è lo spazio, allora compro una cosa, la metto là sopra, ecco perché non c'è più spazio, sto costruendo, comprando e metterò sopra e non faccio più il lungo, un casino. Avanti Carlo. Così è, più ne compri e più spazio ci vuole di insomma per sistemare tutto. No, io lo stesso ultimamente avevo avuto problemi col microonde, io c'ho un Whirlpool, quello MyChef, l'avevo preso almeno 7-9 anni fa e praticamente non scaldava più, cioè accendeva, funzionava il timer eccetera, ma non scaldava più, quindi sono andato e ne ho preso uno nuovo, però ho detto mi dispiace buttarlo. Allora cercando su Google ho visto quale poteva essere il problema, praticamente l'ho aperto, l'ho smontato, ho scaricato dentro il condensatore perché c'è scritto di scaricare il condensatore se no c'è il rischio di prendere una scossa forte con il microonde, no? Anche se scollegato dalla rete, ho tolto il magnetron, ho preso la sigla, me lo sono ordinato da Amazon, ho sostituito il magnetron, rimesso a posto, ho visto un tutorial e adesso è perfetto, funziona benissimo. Nel frattempo l'avevo comprato nuovo, sempre un forno Whirlpool, capito? E dopo 4 mesi mi si è fulminata la lampadina, allora l'ho portato da Ladu a Predanieta perché ha l'assistenza, essendo ancora in garanzia, e mi ha detto sì, me lo lascia qua 2 o 3 giorni, la richiamo quando è ultimata la sostituzione della lampadina, dice viene, se lo riprende. Non mi è costato niente perché era in garanzia. Nel frattempo avevo riportato su il forno a microonde vecchio che l'avevo aggiustato ed è perfetto, funziona benissimo, e adesso l'altro l'ho lasciato giù in garage dentro la scatola, quando si rompe uno c'ho l'altro di riserva, però la friggitrice ad aria, tornando su quella questione, penso che sia un'ottima soluzione per fare cose non fritte, diciamo, però una goccina d'olio mi sa che ci vuole sempre, secondo tipo se uno fa le patatine, ma giusto una goccia. Scusate, perdono, io mi ero nominato Carlo Ladro, io lo chiamo Ladro, io le stavo chiamando i carabinieri e poco a mettere mano addosso, ti spiego perché. Ho comprato con Forama un scavabagno, ho pagato 160 euro, me lo piazzo, garanzia 2 anni, no, 5 anni, perdon. Me lo piazzo ed era rotto dove proprio entra l'ingresso dell'acqua, dove c'era proprio il ritegno. Niente, vado al Conforama, glielo spiego, glielo devo dal lato, c'è la garanzia, vado dal lato, ci metto un tubo, lo metto di acqua, sì, e faccio in effetti verde quello che l'altro, mi dai 80 euro, ma lei sta scherzando, questa è garanzia, sì, ma nulla, poi l'abbiamo fatta, ma della prova tua, a me non me ne affronti nulla, sono in garanzia, e non mi fare incazzare, perché se mi incazzo poi stai male, tu perché devi mettere male addosso, non c'è un casino, stavo chiamando i carabinieri, poi ho chiamato anche il Conforama, è venuto uno che lavora lì, sono messo a cosa, non so come, insomma, me l'ha dato un altro scaramagno, giustamente poi che funzionava. Cioè, ecco perché io Ladro lo chiamo Ladro, e io mi auguro che non succeda a qualche altro una cosa del genere, perché io sono, alla prima, guarda, a me che già ne mi conosce, io sono tipo, che a me se non mi rompere male, è stato 2 volte a pensarci e mettere male addosso. Ho capito, Tony, ma siccome era, l'avevo preso a marzo, e quindi c'è la garanzia 2 anni, io per usufruire della garanzia devi registrare il prodotto entrando sul sito della Whirlpool, automaticamente mi ha detto ti devi rivolgere all'assistenza tecnica Sassari Celadu, quindi lì l'ho portato e mi ha cambiato la lampadina, siccome si usano adesso tutte le lampadine a LED eccetera, ed è particolare quella, ho provato a vedere se c'era, c'è da ordinare, costava 27 euro, ho detto io non ce li spendo, essendo in garanzia me la devono cambiare loro, non è che dopo 5 mesi mi si rompe il forno, 5-6 mesi quello che è passato, cioè si rompe la lampadina, io non posso vedere la pietanza che sta cuocendo perché è tutto buio, quindi è rientrato nella garanzia e non ho pagato niente. A dire la verità, se l'ha tenuto 4-5 giorni, poi mi hanno chiamato, sono passato e me lo sono ritirato, punto e basta, non ho speso niente. Il forno funzionava perfettamente, era solo una questione di buio di lampadina, quindi era una cosa da poco conto, se no già lo conosco l'Adu come io, hai ragione, più che l'Adu è ladru. Ma il mio cos'era? Un'ora e mezza, due ore massimo che l'aveva appena comprato, e quindi, cioè, ma in metà consumo avevo 80 euro, ma entra l'acqua dove perde, ma te lo scherzo, ma vai, fa da bravo, come sarà da piare. Avanti già. Sarà come la volta che mi si è bloccato lo scarico della cucina, ha chiamato questo idraulico, guardate su internet, non sapevo chi chiamare, chiamo questo idraulico, viene con una pompa e dice adesso proviamo, ha messo questa pompa, gli dà due pompate e dice non si può fare nulla, qua bisogna sfasciare tutto, bisogna smontare la cucina componibile, il tubo passava dalla cucina allo scarico del water e quindi dice bisogna sfasciare tutte le mattonelle, le trascorti, lasci stare tutto quanto. E mi ha fatto pagare 90 euro perché ha usato la pompa, non ha fatto niente, da premettere che non mi ha risolto il problema. Poi mi viene in mente, chiamo questo amico mio, mi ha detto già, io ci tento, vediamo un po', è molto intasato il lavandino. Ha preso e ci ha messo prima questo liquido che si chiama Ferrari, scrivetevelo perché è micidiale, lo vende Sidernet, che adesso ultimamente non ne aveva, però l'ho usato. Come mette questo liquido si sente blu blu blu blu. Poi prende con questa molla, con questa molla li fa un paio di giri di molla, gli dà una pompata e siete sbloccato completamente, cioè sei stato fortunato. E mi ha fatto pagare di meno facendomi tutto il lavoro, mi ha fatto pagare 60 euro, mi ha cambiato anche una guarnizione, immaginati. A quello che da che sono amato l'avrei buttato giù dalla finestra, io non glielo avrei altri. Per usare la pompa. Ma andiamo, faccio un botto, c'avevamo anche noi la pompa, 2-3 pompate, 2-3-4 atmosfere, quello che vuoi, capito? Oh, per carità. Forse vi siete sommodolati già, tu chi era forse? O Giulio oppure Carlo? No, io. Forse ero io. Non ero io, ma niente, non c'è problema. Sì, già, io da poco l'avevo stappato, ma era nel gomito, no, che c'è sotto, nello scarico. Ho smontato il gomito e l'ho pulito è andato benissimo, no? Lo scarico del lavandino, no? Non è un problema, sono cose che succedono. Poi con la pompa deve stare attento, sai perché? Perché avevo sentito, io amici idraulici ne ho tanti, avevo sentito che con la pompa puoi spaccare anche i tubi, e se spacchi i tubi allora sì che sei veramente costretto ad aprire i muri o addirittura i pavimenti per poter riparare, se no non è possibile. Per quanto riguarda la marca tu, comprarlo. Noi abbiamo il frigorifero, abbiamo, e con la marca Whipple, come stai dicendo tu, quello grande, con due scuole grandi, una parte fa freezer e una parte frigo, naturalmente poi ci sono casi, eccetera, eccetera. E te lo peschiamo. Giulio, te l'ho messo un po' di portante. Insomma, comunque dico così, sì, io ho fatto anche l'idraulico per 25 anni, caro Giulio, e la pompa sì, certo non vai a mandarlo a 5-6 atmosfere perché spacchi tutto, quando tu mandi 2 e mezzo massimo a 3 atmosfere sei a posto, capito? Io uso anche la sonda, ce l'ho anch'io, una sonda me l'ho comprata per me stesso, e la volta faccio anch'io, io ho fatto un impianto idrico qua da zero perché c'era l'unico tubo che andava a finire nella Braga, unico per scarico, doccia, lavandino, bidet, di tutto e quanto in più, no, non può essere, niente, tutto spaccato il pavimento, ho fatto tutte le tubazioni indipendentemente, dalla doccia, dal lavandino, dal lavello, quello, quell'altro, e una Braga con 5-6 entrate, la Braga è quello che fa dove c'è il Vucini, giustamente, e dirò che è stata contentissima perché lì, una volta che succedeva qualche casino, si tasava tutto, non riusciva più a scaricare. Bene, Nera, Carlo, ripeto. Lo stesso, me la cavo anche io con l'idraulica, infatti. prima dicevo Gianni che ha chiamato 90 euro, ho detto chiamava a me o a Tonino e sicuramente li avremmo risolto noi. Io qualche volta qualcuno ne ho sturato di scarico intasato, io lo stesso ho la pompa e più c'ho quella sonda molla che è eccezionale, ne ho due, una da 5 metri e l'altra da, non vorrei sbagliare, ma è da 9 metri, è quella eccezionale, infili quella, giri dove c'è l'ingorgo, lo smuove, dopodiché ti dai una pompata senza esagerare con le atmosfere e poi ci butti dentro un po' di qualche liquido che pulisce le tubature, ce ne sono tanti in commercio e lo scarico non si intasa più, capito? Io ne ho risolto tanti di problemi, ma non ho mai detto di togliere mattonelle, bisogna sfasciare tutto, perché con una prova è molto superficiale quello lì che te l'ha detto, ti ha fatto pure pagare 90 euro e l'avrei sparato. Vai Gianni. Eia, per rispondere a Giulio, questo qua, questo amico mio, prima per addolcire e ammorbidire l'ingorgo ha buttato questo Ferrari che è micidiale, guarda, molle proprio, sembra acido muriatico. Poi ha guardato l'orologio, ha lasciato per i secondi e ha buttato subito l'acqua calda. Dopodiché ha dato la pompata e si è sbloccato subito. Ha detto sei stato fortunato, guarda, tentiamo, o la valla spacca, tanto per farti spaccare il pavimento è sempre meglio che ci tentiamo. La tentata gli è andata bene, capito? L'ha sbloccato completamente, perché poi era tutto libero. Sì, Gianni. Sì, beh, certo, già lo so che ci sono dei prodotti che vanno benissimo. Giuro, è anche importante, bisogna vedere anche l'impianto da quanti anni è fatto, perché prima si usava un certo tipo di tubi, io ad esempio qui a casa ho i tubi, quelli in PVC, quelli da 4 cm di diametro, quelli grossi veramente, e dunque è facilitato, lo scarico è facilitato essendo in PVC, ma magari non so se tu hai ancora i tubi di quelli in piombo, cosa erano, di ferro, come si usavano una volta gli anni. No, io ce l'ho in plastica, ce l'ho in PVC, i tubi ce l'ho tutti in PVC, ho quelli dello scarico. E comunque, infatti l'ha detto, si possono anche spaccare, gli diamo qualche atmosfera in più e ce l'ha fatta. Però quello là, gli ha telefonato al principale, dice no, non si può fare nulla, ma vengo io, no, non si può fare nulla, ci ho tentato in tutte le maniere, ho provato, ho riprovato e non sgorga, non riesce a sgorgare bene. E il principale ha detto vabbè, allora ritorna e ci deve dare 90 euro. Come 90 euro? Se non ha fatto nulla, ma la pompa l'ho usata io, quando uso la pompa io faccio pagare. Vabbè, ho detto, ma gli ha dire, mi ha dire il genere contrario, va. Quello è un ladro già, quello è un ladro, mi ha voluto rubare 90 euro. Vabbè, dai, signori belli, io vi lascio, vado a cenare. Ci sentiamo, ciao Gianni, ciao Tonino, ciao Carlo, Antonio se sia ancora all'ascolto, Natalino se sia all'ascolto, poi chi c'era, Eugenio forse non c'è più all'ascolto, comunque saluto a tutti e ringraziamenti a tutti, Carlo, Carlo. Ci sentiamo prossimamente, va, riprendi Tonino. Capa, nonostante che te l'ha messo a portante da poco fa, te la trasmettendo, ti siete sotto lo stesso, dai. Leggermente più alto della tua, portante, però facci lo stesso. Ok, buon carico Giulio, a te ancora il familiare, ci sentiamo le prossime, se va bene. Avanti Carlo. E ciao Giulio, buona carica, sì, ti hanno messo una portantina, ma la superavi, si sentiva appena, ma tu passavi alla grande, buona la tua radio. Ciao, buonanotte, alle prossime Giulio, sempre un piacere di sentirti. Ciao Giulio, dai, ci sentiamo, buona carica quando la fai, buonanotte. Comunque la portante per qua la passavi alla grande, sembrava che avessi un lineare attaccato di quelli che ti fanno uscire un po' distorto, è la stessa cosa. Vabbè, comunque è andata così. Carlo, per dirlo a te, noi addirittura stiamo molto attenti, li passa lo scottes nei piatti prima di lavarli, li passa lo scottes, li toglie tutta la roba ultra, tutto quanto, malgrado tutto si intasa lo stesso. Sì, perché Gianni, nello scarico ci va un po' di tutto, materiali oleosi, insomma, anche se lo levi, insomma, un po' di olio c'è, quello se ne va nella parete dei tubi, no? Anche se sono in PVC, il PVC si impregna di olio e poi pian piano si accumula, si forma uno strato, poi magari basta un pezzettino di pasta, qualcosa che sfugge, eccetera, col tempo succede, però basta andare piano piano. L'unica cosa per lavorare bene quando si intasa lo scarico di cucina, devi togliere il sifone da sotto il lavandino e tu devi lavorare senza il sifone, cioè nell'attacco del muro dello scarico lì inserisci la sondina e devi vedere i metri che ci sono dal tuo scarico a dove è collegato, sicuramente con la braga delle, come diceva Tonino, del bagno, del bagnetto, del doppio servizio, quanto ci sono, 5 metri, bene, usiamo la sondina da 5 metri, infili, infili, quando poi si blocca allora giri, giri, giri e poi infili sempre, dopodiché provi a buttare acqua, magari a molte volte succede si sblocca così, però ci sono tipo quello ACE, scarichi, si chiama, un prodotto di ACE, tipo Varechina, no? Praticamente ACE cattivi odori degli scarichi dei lavandini, io ci metto quello ogni tanto, due dosatori una volta o due volte alla settimana, quando me ne ricordo ce lo metto sempre, tipo la notte quando laviamo tutto quanto, no? Così agisce, lo metto là dentro, profuma tutto quanto lo scarico e ti diciamo sgrassa tutte le tubature e rimangono pulite. Io praticamente da quando ho rifatto cucina tutto quanto, l'impianto nuovo avevo rifatto, non ho mai avuto nessun problema, dallo scarico del lavello di cucina alla braga, diciamo, del doppio servizio che è dietro, sono 2-3 metri, non di più, capito già. Vai Tonino. Niente, io ripeto, non mi è mai successo perché ho tolto il sifone, perché il sifone sono sempre quelli che si incasinano di più, ho messo lo spiralazzo diretto, poi c'ho la retina e quando ho diciamo un fregamino di sugo che ce lo faccio con il conticino, ma è qualcosa a buttare via, aggiungo acqua, butto in gabinetto, c'è il tubo da 100 quindi a Vuglia, non è come il tubo da 40 e scarico per il lavandino, quindi è tutto diverso. Ho la retina, se mi cade qualcosa si blocca nella retina che c'è dei buchi piccolissimi e le butto la pasta bene al suo pulito, quindi è scarico solo acqua detersiva eccetera. Tutto qua, signori, sono le 8:20, io vi lascio che accendo la TV e preparo qualcosa da mettere sotto. Ok, va bene, Carlo, mi ha fatto piacere, se mi ha fatto una impressione, saluto anche a Giulio che ho fatto poesie e di nuovo, ciao Natalia, se l'ascolto, ciao Gianni, buona l'ultima le paia che devi fare, fatela così sia a posto, io chiudo il tutto, ci sentiamo alle prossime, statevi bene, le 20 Gianni. Ciao Tony, ciao, buona carica, quando la fai, grazie per il question. Avanti Carlo. Tonino, grazie delle quattro chiacchiere, piacere sentirti come al solito, già ci sentiamo domani se va bene, dai. Io domani lavoro rientro di sera, finisco alle 21, quindi magari domani, per questa settimana magari di sera mi sentirete poco e niente, capito, perché rientro sempre un po' tardino, poi rientri, sei affamato, tracambiati e tutto, si fanno le 10 in un attimo. Bene mera, Tonino, ciao, buona carica, buon tutto, vai Gianni. E allora 10 minuti anche io, poi alle 8 devo farmi le farina, preparare da mangiare al cane, perché la mia scelta è quella di farli la roba io, malgrado gli aggiunga un po' di crocchette, ma la cucina la faccio io, pasta, carne, tutto quanto io li faccio. Ciao. Dimmi una cosa Gianni, ma stai uscendo tu piano piano con la gamba? Io sto anche guidando Carlo. Bene, me la sono contento, allora dai, se c'è l'ultima dose di eparina vuol dire che insomma ti liberi almeno di un farmaco in meno e vuol dire che pian piano stai recuperando. E ho recuperato tanto. tanto, sono attaccato al dottore stasera per farmi fare le impegnative per fare praticamente le RX alla gamba e poi fare la visita ortopedica. E non mi avevano scritto praticamente nel foglio di dimissione di fare le RX alle ginocchia. Ho detto, ma questa cosa mi sembra strana, mi sono andato dal dottore e mi ha detto una cosa strana. Sono andato all'ospedale stamattina perché telefonavo e non rispondevano, non sai cosa mette, vabbè, è stato uno sbaglio, adesso se la faccia fare l'impegnativa per l'anca e basta, tutto finisce lì, una cosa proprio leggera, capito? Come se nulla fosse successo. Io sono stato 2 settimane che chiamavo all'ospedale e non rispondevano, e poi mi sono ricordato che praticamente erano in ferie, sono andati in ferie il 22 e hanno ripreso il 9, l'ospedale è chiuso, capito? Cioè dimmi se puoi chiudere un ospedale. Pazienza ci vuole, dai, comunque l'importante è che stai recuperando piano piano, non sforzare troppo, fai piano piano e poi così magari recuperi meglio e recuperi bene, dai, così almeno ti puoi muovere, sei più efficiente e magari puoi uscire anche di più. Vabbè, la prima uscita in macchina l'ho fatta perché praticamente il 24 notte eravamo tutti insieme e a un certo punto mia figlia ha acceso il telefono e ha visto la sua patente su Facebook, praticamente dicendo che avevano trovato il portafoglio con tutti i documenti eccetera eccetera, che era un bar di Sassari. Quindi mia figlia ha detto, come faccio papà, io dai guido io, no, lei aveva bevuto, quindi io non ho voluto far guidare, e praticamente ho guidato io, è la prima volta che ho guidato, lei aveva bevuto spumante e cose, non si sa mai che poi magari la fermano e succede un casino, io non avevo bevuto nulla, per cui siamo andati, questo bar era chiuso, si è fatta dare il numero di telefono del barista, del padrone, e dice io non ci devo andare, sono in ferie, e gli ha detto sì, però io ho dei documenti importanti, c'è la carta di credito, c'è tutto quanto, e lo so, è una rottura, dice ci è andato ma di malincuore, capito? Io guarda, ci sto un quarto d'ora, se tu non vieni me ne vado, gli ha detto. Beh, comunque li ha recuperati. Sì, li ho recuperati il giorno dopo. Gli ho detto guarda, se non ti apre il bar sto chiamando i carabinieri, perché ci sono dei documenti importanti, c'è la patente, c'è la carta di credito, c'erano altre documentazioni importanti sue eccetera eccetera, quindi non c'erano soldi, probabilmente lei non è passata in quella via dove l'hanno trovato, a lei gliel'hanno fregato dalla borsetta, secondo me hanno visto che non c'erano soldi e quindi ce l'hanno buttato dove gli è capitato, l'hanno buttato in via Cavour, capito? L'ha trovato questa ragazza, l'ha portato in questo bar, dice non mi potevo portare il portafoglio appresso io, l'ho lasciato in un bar e via. E vabbè, lì ha sbagliato il gestore, insomma il barista, perché quando tu trovi documenti del genere cosa fai? Chiami i carabinieri a dire guardi, io sono un esercente, c'è un bar eccetera, ho trovato questo, o mi hanno portato questo portafoglio, non ci sono soldi ma ci sono dei documenti eccetera, basta, e lo consegno alle forze dell'ordine, se lo prendono loro e poi, capito, tu vai in caserma e te lo ritiri, punto e basta, e finiva così. Solo che la gente non, molte volte non ha buon senso, capito, e la prende così. Quello che ho detto io dall'inizio, te l'avrebbero portato in caserma direttamente o in un posto di polizia o date ai vigili urbani, loro c'hanno l'indirizzo della patente, c'è l'indirizzo, c'è tutto quanto, e l'avrebbero rintracciato, invece l'ha dato lì, poi l'ha chiuso il bar e poi se n'è andato in ferie, dice io dopo l'Epifania apro, cioè cosa fai? E ha detto a me mi serve uno, che mia figlia abita a Bologna, quindi deve ripartire, non se deve ripartire senza documenti, no? Capito? Sì, è importante che sia andato tutto bene. Quando mi è capitato a me, sarà un annetto fa, vado da Globo, non mi ricordo se dovevo cercare forse delle scarpe da tennis o da trekking, scusami mi è sfuggito un po' il microfono, niente, ho trovato un portafoglio per terra nei parcheggi, no, dove avevo parcheggiato, caduto dalla tasca, si vedeva ed era di un ragazzo rumeno, l'identità italiana, la patente, una cinquantina di euro, in banconote da 10, da 20, codice fiscale, insomma di tutto di più. Cosa ho fatto? Ho preso, l'ho portato alle commesse, ho detto scusate, io ho trovato questo lì fuori. La commessa mi ha fatto sì, deve essere, ha visto la foto della patente, il signore che è uscito ci aveva un bambino, eccetera, dice e così abbiamo frugato, abbiamo trovato un numero di telefono segnato, abbiamo chiamato e ha risposto lui, era il suo numero di telefono, capito? Quindi è venuto lì e se l'ha ritirato, capito? Vabbè, interessante che io una volta, lo stesso mia madre, a Lupin avevano messo, prima c'era Lupin in Piazza Zuni lì, no? E c'era tutta questa roba, avevano messo tutta questa roba in offerta, tutta ammucchiata, cosa la gente cercava in mezzo, faceva. E mamma cercando roba così ha trovato questo portafoglio e l'ha portato in direzione. C'era una pensione intera, mamma ha detto questa qui di qualche donna pensionata che ha ritirato la pensione e oggi era smarrito, l'ha portato subito in direzione e praticamente questa, vede questa signora poi disperata, piangendo, coso, e gli ha detto signora cosa c'è? Oh, questa pensione ha promesso, e ha detto guardi, ma ha perso il portafoglio, sì, l'ho perso qua, chissà dov'è, chi l'ha trovato, signora non si preoccupi, l'ho trovato io, l'ho portato in direzione, e gli ha detto oh bello, dice che l'ha fatta anche commuovere, dice questa donna con un freddo che c'era maniche corte leggerina, poverina, si vedeva che era una persona che aveva bisogno, gli voleva pagare il caffè a tutti i costi, ma praticamente mamma gli ha detto no, non si preoccupi, non c'è problema. Carlo, ci sei? Carlo, che succede? Carlo? Come già? Cosa succede? No, forse col microfono ho toccato la frequenza, si era spostata. L'ho immaginato, quegli apparecchi io li odio per quello, quelli elettronici, io li devo subire per quello. Perché basta che tu sposti qualche cosa, non capisci più nulla. Vabbè. Capito, non so se hai sentito il racconto che ti ho fatto. Sì, no, io ti ho sentito e quando sono andato a rispondere io sul microfono c'ho i pulsanti per cambiare canale e quindi mi ero passato sul 9. Io invece poco prima di smettere di lavorare sono sceso dal camion e praticamente sceso dal camion vedo questo bancomat con tutti i soldi attorcigliati attorno. Mi sono inchinato, c'erano 150 euro e questo bancomat. Guardo il bancomat e vedo nome e cognome e ho chiesto di chi, se conoscevano questa signora, e mi ha detto guarda la mamma abita lì. Sono andato dalla madre, gli ho portato tutto e praticamente la gente che aveva bisogno non ce la faceva con i soldi e doveva aggiungere i soldi col bancomat per pagare non so che cosa. Praticamente la figlia non se ne accorta, si è tolto le chiavi della macchina, la tasca, c'aveva in tasca questo bancomat e tutto quanto con i soldi attorcigliati per pagare alla posta che era lì vicino e gli è caduto in terra, non si è accorta di nulla. Ho capito, purtroppo è un attimo a volte a perdere qualcosa, o perché te la fregano o perché lo perdi, perché non stai attento, è importante ritrovarlo, dai. Che ore sono? 19:51, pensavo fosse più tardi già. Tu come sei messo con la cena? Io con la cena devo aspettare Elena che salga, che è andata giù col cane e poi decidiamo, ma penso che ci faremo qualche cosa di veloce, una frittata, qualcosa così. Ieri abbiamo mangiato la pizza e non mi è piaciuta, era troppo gommosa, infatti ci è rimasta sullo stomaco, sicuramente non era rivitata bene, perché solitamente qua la fanno bene, bella croccante e cose. non mi è piaciuta. E oltretutto stanno risparmiando molto, quando tu gli chiedi una pizza a tonno e cipolle, vedi solo le cipolle, tonno non le vedi. Stanno risparmiando molto con la roba che mettono in mezzo, per cui adesso cambio pizzeria, perché a me mi piace sentire il sapore quando mangio la roba, l'ho pagata per quello e per quello la voglio mangiare. Per cui, sì, vabbè, mangeremo qualche cosa di veloce, non lo so, magari ci facciamo una frittata così, a me piace molto con le cipolle, gli metto cipolle, gli metto un po' di formaggio in mezzo, sale, ce la facciamo così la frittata, ci mettiamo 6 uova, non siamo delicati. E già va bene, bella sostanziosa. Sì, anche a me le cipolle sono ottime, ottime. Io stesso, quando mia moglie fa il brodo, no? Ci mette carota, ci mette la cipolla, eccetera, quella me la pesco sempre io, non ne mangia nessuno, me la mangio io. Idem, io la cipolla la mangio anche cruda nell'insalata, le faccio pomodori con le cipolle, lei mi dice, vieni, non mi stare vicino quando mangi l'insalata con le cipolle, me la futti nuda, me la mangio lo stesso, devo togliere il gusto. Sì, esatto, io ho assaggiato delle insalate, di quelle insalatone pronte, ne ho assaggiato una che aveva dei pezzetti di cipolla, ma così buona, perché sentivi questa pezzettini, ma comunque era delicata, non era tanta la cipolla, no? Invece se uno non gli piace, insomma, la cipolla, l'insalata con la cipolla proprio non va. A me invece piace, o sull'insalata oppure su qualsiasi pietanza, insomma. A lei piace la cotta, non le piace quella cruda, la cipolla. Invece io mangio in tutte le maniere, a me piace cotta, cruda, perché le cipolle ripiene come si fanno le zucchine, non le avevo mangiate in forno. Sì, sì, sì, ottima. Zucchine, a me le verdure piacciono tutte, dalle melanzane alle zucchine, ai peperoni, perché la peperonata la vogliamo, ti piace a te, la vogliamo dimenticare. Ne vado matto, specialmente la sera quando si è rappresa e che ha preso bene il sapore di noia. La peperonata praticamente ci devi fare prima il soffritto di cipolle, poi metti il sugo e poi nel frattempo ti sbucci i peperoni, insomma te li tagli a fette sottili, eccetera, e poi ci li butti dentro. Però la cosa, il sapore migliore glielo danno le cipolle. C'è chi al posto delle cipolle lo fa con l'aglio, io no, io le faccio come te. E poi mi piace che sia il sugo bello denso, mica, tanto è buono. Buono, sì, anche la pasta ci puoi condire con il sugo dei peperoni, lo sai, le pennette poco sono buone. Sì, caro, le ho visto praticamente con il robot, dopo che sono cotti, macerati con il robot e messi insieme alla pasta, fa una crema allucinante, buonissima. Sono eccezionali, insomma io non tralascio niente di verdure, qualsiasi cosa, dalle verdure dolci tipo le bietole o le carote, le zucchine a quelle come i peperoni e le cipolle, per me è tutto buono. E le barbabietole le hai mangiate? Anche quelle, le barbabietole, quelle rosse, quelle da zucchero. Esatto, quelle rosse fatte a pezzettine, salata, condite con maionese, con le patate bollite, con la maionese, sono una bontà. Sono ottime, praticamente io quelle le conosco da quando ero ragazzino, perché avevamo praticamente un orto che lo faceva il compare di mio padre, e lui piantava queste barbabietole rosse, e facevano sia le bietole con le venature rosse, le foglie, ed era ottima da cucinare come verdura, le foglie proprio della barbabietola, ma anche la barbabietola, mia mamma la faceva così a insalata. Vabbè, sono cose buone, sono cose buone. Le barbabietole io le mangiavo molto dalla mia ex suocera, che le faceva spesso, poi anche mia moglie le faceva, dai, faceva molto spesso anche lì, li metteva le patate bollite, maionese e condiva, ma roba buona così, ti attirano perché sono dolci, capito? Però fanno male, a me fanno male. Sì, perché contengono molti glucosio, per te non è che vada tanto bene. Macchia noi. Sì, lo so, già le conosco bene. Adesso non è che ne trovi spesso nei frutta e verdura di quella roba lì, Ma ne vendevano sotto vuoto, praticamente era tirata tutta l'aria e chiudevano così, e io li trovavo così, perché poi tolgono quel succo, capito, se no macchiano tutto. Sì, allora è sicuramente per quel motivo lì. Sì, le verdure possono fare solo bene, ovviamente a me piacciono anche le frittate di bietole o con gli spinaci, insomma già si può fare un sacco di roba anche con le verdure. Eia, gratinate, tutte le maniere, io verdure e frutta non mi deve mai mancare. Ecco, e le zucchine ripiene oppure lo sformato di zucche, mia moglie lo sa fare, è ottimo. Sì, lo fa anche, lo fanno anche qua, dai. E a volte anche solo lo sformaggio, a volte faceva solo lo sformaggio, gli metteva la carne macinata eccetera eccetera, sì, le ho mangiate, mi piacciono anche quelli lì, mi piacciono anche quelli, se no le melanzane impanate fritte, mamma mia, roba buona già. Così facciamo vedere la culina in bocca a qualcuno. Davvero, mi sono che mi sa che a quest'ora stanno tutti cenando già. Ma qualcuno ce l'ascolta, visto che è iniziato a mettere una portantina. C'è portantina? Boh, io non è neanche ne sento. Io ho ritardo un corpetto così nella. Non sopra di te. Adesso lo spazio si sente. Va bene, la Carlo. Adesso ce l'abbiamo fatta la buffata. Possiamo andarcene anche a letto. Abbiamo mangiato virtualmente. Hai ragione, la buffata virtuale. Vabbò, Gianni, già ci sentiamo nei prossimi giorni, dai, se non domani, nei prossimi giorni sicuramente. Buon tutto, buona ricarica, ci sentiamo. Ciao Carlo, ci sentiamo, stammi bene, buona carica quando la fai, ci sentiamo. Ciao Gianni, alle prossime, buonanotte. Hola, ci cuca alle 10? Avanza. Che volate? Parlo da questa. Ciao Carlo, ben sentito. Ciao Roberto. E beh, che si dice? Ero con Gianni sino a qualche attimo fa e solo che era di cena e quindi niente, mi adesso ho sentito a te e quindi ti ho risposto. Ok, dai, anche io stavo da mangiare, ho fatto un giro in altre cose, poi ho sistemato un po' in stazione, ho messo un quadro elettrico nuovo, con tutto, diciamo, ho tirato un po' via di ciabatte, di quelle ciabatte elettriche, così un po' più ordinato, non ho questi fili per lo metto, ho fatto un quadro con salvavita separato dalla linea di casa, un magneto termico, in più c'è un display dove mi dà la tensione istantanea e il consumo istantaneo sia in ampere che in watt. Una bella storiellina ho fatto, dai, sono soddisfatto. Ok, ti lascio andare, anche qualche minuto non rimango qua senza qualcuno, se no anche io vado a mangiare. Ti saluto, ti auguro buona cena e buon tutto, e saluto anche eventuali qualcuno che sta anche ascoltando o che vuole entrare, dai. Ma non ti preoccupare, tanto io ho la cena, ce l'abbiamo pronta e quindi ero qua, stavo giusto apparecchiando, ma ho già terminato, ho messo già tovaglia, tutto quanto, quindi non ti preoccupare, quindi stavi facendo un po' di ordine e immagino poi magari se stai usando più apparecchiature, alimentatori, ce ne sarà da impazzire con prese, ciabatte e tutto quanto, insomma, quindi un po' di ordine non guasta, Robè. Guarda, senza dire il male, qua non ci sono meno di 25 utilizzature tra radio, apparecchiature varie, strumenti, eccetera, e ne ho tirato via pure qualcosa, siamo intorno alle 25. E chi sei? Antonio tu sei? Cenato hai. Noi siamo ancora qua a fare quattro chiacchiere, Gianni è andato a fare ricarica, prima c'era Giulio, insomma c'erano altre persone e sono andati tutti a cenare, insomma siamo rimasti io e Roberto. Ti ho salutato, forse mi ha sovramodulato Carlo, ho chiamato dopo e ho detto sei tu Anto e poi c'era Carlo che stava parlando. Mi passa di brutto quindi anche dalle tue parti Carlo? Non lo so, magari io non mi sono neanche accorto, ho sentito Antonio e Antonio lo riconosciamo dalla voce. E dove? Non ho capito, non ho detto questo che sta anche a volto la notte, non ho capito. Ma dove? Non lo so, io vabbè la notte non è che c'entro, non lo so, ma dove dalle mie parti? Non lo so, non, se c'è qualche indicazione dillo, non ho idea proprio. C'è uno che metto che ha messo la radio sul terrazzo, cioè ha messo un'antenina sul terrazzo, ma non l'ho mai sentito, sinceramente è attaccato a me. Ah, ho capito, sì, e c'è qualcuno che ogni tanto dà qualche colpettino. Ah, deve essere qualche boafeng però. Col BP sicuramente il boafeng, poi non so se ci sono altri tipi di apparati, sicuramente non è un apparato di quelli diciamo un pochettino più sofisticati perché non ne hanno di BP. I BP ce l'hanno quei walkie talkie, quelli boafeng, cose del genere, dai, questi tipo cinesi e cose. No, anche io l'altro giorno lo sentivo anche forte, in certi momenti a me mi arriva molto forte, 9+20 arriva, non so di chi sia questo segnale, qualcuno che ascolta, ma ce ne sono tanti che mi arrivano anche a amici di messaggi che ci ascoltano, qualche commento, qualcuno che non può entrare e manda il messaggio e mi dà la sua opinione, è capitato più di una volta. E magari qualcuno vuol fare la presenza, far capire che c'è, che sta ascoltando. Non lo so io, non so che dire, dai. Ok, Carlo, a te il mic. So che stavate parlando di ricevitore, Robè, tu che hai più esperienza di me, cosa ne pensi del ricevitore AOR, AR, DV1, che prende un po' tutto, anche fa sia il digitale che l'analogico? Un apparecchio nono di AOR, ne ho due, io ho l'AOR 3000 che è discreto, è un buon ricevitore, fa da 0 a 2300, poi c'ho l'AOR 2000 che è un tipo, come si chiama, tipo un portatile, dai, quello è tipo, può funzionare sia in macchina anche come base il 3000, poi se ne hanno fatto diversi, no, sono dei buoni prodotti, naturalmente dipende uno da cosa vuol fare, perché quando è troppo largo il ricevitore c'ha sempre qualche penalità, dai, diciamo, perché entrano molto le broadcasting, le trasmissioni 88-108, per cui se non metti un filtro d'ingresso non ascolti quasi niente, se vuoi ascoltare le HF non più di nulla perché entrano di brutto, sono talmente potenti quelli, non lo so, ma ce l'hai tu o te lo vuoi comprare? No, stavo pensando di prendermelo io un ricevitore buono, dai, perché io non ho niente per fare radioascolto, in passato usavo un vecchio VHF, ma era complicato anche perché dovevi girare, era quelli a rotelline, costando frequenze, capito, con quello non ci fai niente. Ho visto che tra i più recenti c'è questo della AOR DV1 che fa analogico e digitale, è in grado di anche decifrare insomma i messaggi in digitale, tipo segnali Motorola, DMR, tutta quella roba là. Ciao Claudio, ben sentito. Il discorso è questo qua, se vuoi andare molto avanti sul digitale ti conviene prendere una scheda, tipo quelle, non tipo quelle chiavette, c'è qualcosa di più evoluto e fai tutto. Questo l'attacchi al computer, ti facciato col computer, vai alla grande, c'è una marea di funzioni, di filtri, eccetera, eccetera. Se no io consiglio a trovare tipo un ICR 7000, che lo trovi adesso anche a 300 euro. Ne stavo vendendo uno a 250 euro, a un prezzaccio, perché il valore suo è dalle 400 euro in su, e con colori puoi fare da 25 sino ai 2 giga puoi fare, ed è un bel ricevitore, ti permette di ascoltare le cose, le VHF, un po' tutto ascolti, anche altri tipi di cose, le stazioni meteorologiche, le stazioni marine, eccetera. Ed è un bel ricevitore, bello robusto, autoalimentato, un po' grande, come piacciono a me. Questi digitali, spendere soldi su un ricevitore di quelli come stai dicendo tu, a quel punto ti metti l'interfaccia, la scheda esterna sul computer, e c'è una cosa di gran lunga superiore, perché poi tra l'altro digitale dipende da cosa vuoi fare. Se vuoi ascoltare i bollettini meteo, decodificare qualche cosa marittimo, qualche conversazione, tutto dipende da quello che vuoi fare una persona. Cioè, facciamo rientrare a Claudio un attimino e vediamo un pochettino cosa ci racconta. Avanti Claudio. Non ti racconto niente io. Sono entrato solo a salutare il maestro della nazionale. Ciao Antonio, Carlo e a te, vi ho sentito, sono entrato a salutare. Buona serata a tutti, ciao ciao. Cosa? Poi ho avuto anch'io quello Jupiter, un buonissimo ricevitore portatile, vabbè. Ma quello che sta dicendo Roberto, siamo già ad alta quota. Sono altre cose. Vabbè, divertitevela. Ciao a tutti, buona cena e grazie per avermi risposto. Avanti Roberto, riprendi, buonanotte a tutti. Sì, ciao Claudio, hai sentito, buona cena anche a te, anche tra poco vado. E adesso faccio salutare a Claudio, a Carlo e Antonio. Ciao Claudio, buonasera e grazie che ti hai salutato. Ci sentiamo, mi facendo quattro chiacchiere qua con Roberto e Antonio. Alle prossime Claudio, quando vuoi, già ci siamo sempre, noi ci fa sempre piacere sentirti. Io vi ascolto tutti i santi giorni, ma oramai ho mollato. Vi ascolto volentieri, ma no, ho mollato. Beh, ciao a tutti, buonanotte, ci sentiamo. Avanti Antonio. Sì, assolutamente, sono prodotti validi, per l'epoca andavano più che bene, erano, diciamo, non è che c'erano molti di ricevitori, comunque va più che bene, erano gli antagonisti della OR, della cosa, li facevano anche piccolini, la IAESU, la ICOM, sono delle cose, dipende tutto da cosa devi fare. Carlo, tu devi capire le tue esigenze, a quel punto posso darti quelle piccole informazioni che posso darti, dai, quei piccoli consigli. Tu che esigenze hai, cosa ti piace ascoltare, che tipologia di modulazione, eccetera. Cosa, dimmi qualcosa. Guarda Robè, io diciamo che mi interessa un po' tutto, non è che ho particolari esigenze, cioè il radioascolto praticamente ti permette di sentire più o meno quello che si può sentire, no? Ovviamente, quindi se puoi ampliare magari quello che si può sentire, tipo questo qua che va da 100 Hz a 1300 Hz, a 1300 MHz, dovrebbe essere un bel po' di roba, fa FM, VFM, NFM, insomma fa un sacco di cose, Motorola, Tetra, DPMR, MXDN, IAESU, Alinco, decifra un sacco di cose in digitale. Ovviamente se poi vuoi aggiungere altre cose, quelle sono download che devi fare a pagamento, capito? Praticamente aggiorni il firmware del ricevitore via internet, pagando magari con carta di credito, ti fa aggiornare anche eventuali altri modi per sentire, insomma, tutto lì. Però forse può essere un buon compromesso quello che mi stavi dicendo tu, magari comprare una chiavetta e magari col computer riesci a sentire tutto quello che si può sentire da 100 kHz a 1300 MHz, insomma, che prendi un po', pizzichi un po' tutto. Allora, le chiavettine c'è di tutti i prezzi, dai 30 euro fino a salire. Ci sono le chiavettine vere e proprie, non c'è niente di buono, perché lì non hanno filtri, non hanno niente, quelle che trovi, che sono le vecchie schede di cose modificate per ricevere la TV digitale terrestre, c'erano quelle schedine piccoline, le mettevi. C'è qualcosa di più evoluto, che ne ho preso uno io, discreto, però dipende sempre dalle zone dove ti trovi, perché quella che ho io, che c'ha l'ingresso per le HF, per le VHF, due ingressi separati, ha dei filtri, quella Sassari va discretamente bene, la paghi diciamo una sessantina di euro, 70 euro, dai, forse qualcosina di più. E se va dalla zona dove c'è il muro, se lì ricevi perfettamente perché non ha inquinamento di cosa, di elettrosmog, diciamo di stazioni bloccate, per cui lui riesce ad ascoltare le HF senza grosse difficoltà, ti metti un'antenna dedicata, un affilare e ricevi gli HF. Poi ti metti il programmino SDR Sharp, ce ne sono tanti di quei programmini, e fai tutto quello che vuoi senza spendere grosse cifre. Naturalmente ci vuole il computer vicino, anche non c'è un portatile, un tablet, non so quello che vuoi fare tu, però quella è una bella soluzione a poco costo. Poi se ti piace invece usare i tasti come piace a me, girare le manopole, devi andare su un ricevitore, e ci sono dei bei ricevitori che all'epoca costavano diversi milioni, un esempio è 7000 della ICOM, riceve 7000, che se lo trovi dai 400, anche se qualche occasione la trovi, ne ho visto uno a 250, però secondo me è un prezzo troppo basso, ci avesse qualche problema o qualche fregatura, perché il valore di un ICR 7000, stiamo parlando dai 400 euro in su, se poi è stato revisionato e cosa, anche se 700 euro te lo pagano, ed è un ricevitore eccellente, ti permette di ascoltare da 25 sino ai 2 giga, tutto analogico con tutti i sistemi di ascolto, FM stretta, lago, banda laterale superiore, inferiore, eccetera, ed è naturalmente non ascolti digitale, per la digitale ci vuole un'altra cosa, un altro tipo di digitali, vedi tu, perché ancora stanno iniziando, non c'è molto da ascoltare gli accessi, c'è il programma eccetera, collegandoti ai punti eccetera, però dipende tutto quello che vuoi fare, perché tutto con un unico ricevitore si può fare teoricamente, però è sempre un compromesso, vedi, da una parte magari ricevi meglio dall'altra. Secondo me se piace fare radio ascolto ti usi questi ricevitori analogici e c'è da divertirsi, ti fai da 25 in su, poi se ti vuoi ascoltare le HF ti prendi un vecchio Kenwood, un R1000, che sono ti trovi lo stesso a prezzi discreti e ti fai bene le HF, oppure ti trovi un 140, un 440, lo usi solo come ricevitore, anche se bisogna stare un po' attenti alla detenzione, però se non fai altri utilizzi non viene nessuno a romperti le scatole. Ok, di nuovo a te Carlo e avanti. Sì, adesso devo vedere un po', anche perché dovrei mettere o un discone, qualcosa del genere sul tetto, capito? Quindi può essere anche un buon compromesso quello che mi stavi consigliando tu, la chiavetta col computer, insomma, e provo lì magari, visto che la spesa non è tanta, e quindi provo prima lì, poi eventualmente passerò ad altro in seguito, capito? Quindi mi sembra anche quello un buon compromesso, magari un'altra volta ne parliamo in maniera più approfondita, che adesso, vista l'ora, non mi va di trattenermi e di trattenerti così a lungo a parlare di tutte queste cose. Comunque grazie dei consigli, Robè, a te il mic. Assolutamente un piacere, quando naturalmente ho la possibilità di dargli consigli. C'è questa che c'è, io ne ho due tra l'altro, di quelle lì, una vabbè mezzo difettosa, ma l'ha data Gianfranco, e poi ne ho acquistato un'altra, la RTL SDR, cioè che ha due ingressi separati per le HF e per le bande VHF, e diciamo è discreta, penso che adesso costi 70-80 euro, naturalmente devi installare il programma, la cosa fondamentale è avere un'antenna, perché se non c'è un'antenna non vai da nessuna parte. E ti posso dire, ti metti i programmi, c'è un display bello, grande, con tutte le funzioni, i filtri, una marea di cose, di tipi di modulazioni, di emissioni, anzi cioè, ti perdi pure, perché io ce ne ho caricati un paio di quei programmi, ci sono certi che non sai neanche a cosa servono certi tipi di funzioni, perché sono dei segnali talmente particolari, magari con codifiche particolari, però è carino, dai, ti rivedi perché c'è un bel display, c'hai l'analizzatore di spettro, vedi come la banda, la tipo allargare, stringere la larghezza di banda, poi c'è Waterfall che ti dà tutte le modulazioni eccetera, è bello, una cosa carina, quando capita magari eventualmente te lo posso anche far vedere in diretta, vediamo un pochettino, facciamo riprendere un attimo Antonio che è in parcheggio, avanti Antonio. Guarda, io ho iniziato, la cosa fondamentale è l'ascolto, da ragazzino mi piaceva sempre sentire, poi però mi sono un pochettino informato, eccetera, eccetera, però è sempre stata una mia passione, più di trasmettere l'ascolto, mi è sempre piaciuto. Poi ho proseguito la più grandicella con i satelliti, la mia, l'ho detto tante volte, era un bel divertimento cercare di ricevere qualche segnale particolare, qualcosa che sia un po' rara, trasferimenti di stazioni, per dire, dallo stadio, da quando c'era la guerra del Golfo, quando c'era la guerra di Coso, di la CNN che si collegava, cose così, e ti collegavi di lì e vederti le partite dai trasferimenti, dai fili di trasferimento, era una cosa molto molto che ti dava, diciamo, delle grandissime soddisfazioni. Ho iniziato da lì e poi naturalmente la radio, c'ho un paio di ricevitori, nel senso che ti diverti quando riesci a tirare fuori cose che è difficile, è una soddisfazione grande da parte mia. È come quando tu fai un collegamento con la radio, ho parlato con gli Stati Uniti, la stessa cosa è il contrario, quando ricevi una stazione debolissima che magari nessuno ha mai ascoltato, e quella è una grande soddisfazione, io la vedo così la radio. Dico a te, Carlo. Eh sì, in effetti è il gusto del radioascolto, è quello, andare a pizzicare magari qualcosa di particolare, più che per la curiosità, proprio per la soddisfazione di magari sentire qualcosa da molto lontano o molto particolare, capite? In effetti è quello il gusto del radioascolto. Per me si è fatto tardi, qua mi chiamano per la cena, perché insomma sono le 8:20 e ce ne andiamo a cenare. Grazie del piccolo QSO, Robè, non mi posso trattenere adesso, nel caso ci sentiamo prossimamente, sicuramente già approfondiremo anche questo argomento, dai, magari mi consigli anche qualche buona antenna che non abbia molto ingombro, così la metto un po' in parallelo come discesa di filo con l'altra, e ho fatto un foro abbastanza largo e quindi dovrei riuscire a far passare due cavi anche grossi. Non so se poi per il radioascolto magari è fondamentale il cavo grosso o quello più sottile, comunque già ne parliamo un'altra volta. Grazie dei consigli, un saluto ad Antonio anche, e io me ne vado a cena, ce la risentiamo, ascolto il vostro finale e poi chiudo. E hai ripreso anche io, perché stavo perché mi sono trattenuto un pochettino e devo andare a mangiare. Ok, ti saluto, grazie anche a te da parte tua, da parte mia, penso di te per il QSO, saluto anche Antonio, saluto a tutti gli eventuali amici anche che fossero in ascolto qua. Ok, ciao ciao a tutti, correti da parte mia, vai Antonio. Quello già è vero, dai. Però ci sono cose nuove, sistemi nuovi, ma come hai detto Carlo, ci sono sistemi digitali, ci sono delle nuove alternative, dai, oltre che l'analogico, ma diciamo se ho una passione c'è di tutto e di più da ascoltare, tutto naturalmente dipende cosa vuol fare, perché fare tante cose ci vogliono tante cose diverse, se uno si accontenta ce ne sono sistemi, dai. Ok, di nuovo da parte mia, curati, ciao ciao a tutti. Ciao ciao, ciao Antonio, ciao Roberto, buonanotte a tutti.